Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Tutto il giorno il cielo è pieno di palloni frenati. Dicono che di là abbiano portato in linea anche i tanks e i piccoli velivoli per fanteria, ma questo ci interessa meno di quello che si racconta dei nuovi lanciafiamme. A notte alta ci risvegliamo, la terra trema, un fuoco intenso ci bersaglia, ci rimpiattiamo negli angoli, distinguiamo colpi di tutti i calibri, ognuno dà mano le cose che gli occorrono e continuamente si assicura di averle presso di sé. Il ricovero si scuote tutto, la notte è un solo ruggito, un solo lampo, ci guardiamo l'un l'altro nel baleno delle esplosioni e con pallide facce e labbra serrate scuotiamo la testa, sentiamo tutti come i colpi dei grossi calibri rovinano pezzo per pezzo l'armatura della trincea, buttano all'aria la scarpata, stracciano il rivestimento di cemento. Già sentiamo il colpo più sordo e più feroce, simile alla zampata di una belva in furore quando esso arriva in trincea. Verso mattina alcune reclute hanno già la faccia verde e vomitano. Non hanno ancora l'esperienza. Adagio adagio una luce livida e grigia scende nelle gallerie e fa apparire più pallido il lampo delle detonazioni. È il mattino. Ed ecco che al fuoco delle artiglierie si mescola il miagolio delle bombarde. È la cosa più pazza, più impressionante che si possa pensare. Dove s'abbatte un colpo di bombarda fa un cimitero. I cambi delle vedette escono dal ricovero, gli smontanti vi rientrano barcollando, sporchi di fango, tremanti. Uno si accoccola in un canto e mangia silenzioso, un altro, un richiamato dei complementi, singhiozza. Due volte lo spostamento d'aria delle esplosioni lo ha fatto volar fuori dal parapetto senza produrgli altra conseguenza che uno shock nervoso. Le reclute lo guardano. Un simile male è contagioso, dobbiamo stare in guardia. Le labbra di alcuni già cominciano a tremare. È un bene che sia ormai giorno. Forse l'attacco verrà nella mattinata. Il fuoco non rallenta e già si estende alle nostre spalle. Fin dove giunge la vista sprizzano fontane di fango e di ferro. I colpi coprono una zona larghissima. L'attacco non viene, ma le detonazioni continuano. A poco diventiamo sordi. Quasi nessuno più parla. La nostra trincea è pressoché distrutta. In alcuni punti arriva all'altezza di mezzo metro ed è tutta buche e montagne di terra. Proprio davanti a noi scoppia una granata e si fa nero. Sepolti sotto la frana, dobbiamo lavorare a dissotterrarci. Dopo un'ora l'entrata della galleria è di nuovo libera e noi siamo un po' più calmi perché abbiamo avuto da lavorare. Il nostro comandante di compagnia si fa strada a carponi fino a noi e ci annuncia che due ricoveri sono spariti. Le reclute nel vederlo si tranquillizzano. Dice che questa sera si tenterà di portarci da mangiare. L'annuncio suona consolante. Al mangiare veramente nessuno salvo Tiaden ci aveva pensato. Ma insomma è qualcosa che da fuori si avvicina a noi. Se si manda a prendere il rancio, pensano le reclute, vuol dire che non la va poi così male. Noi ci guardiamo bene dal distruggere la loro illusione, pur sapendo che il cibo è importante quanto le munizioni e che solo perciò viene fatto ogni sforzo per procurarcelo. Ma il tentativo non riesce. Parte una seconda corvée e anch'essa deve far dietro front. Finalmente ci va fra gli altri anche Kat, e lui pure ritorna senza aver concluso niente. Non si passa, Neppure la coda di un cane scamperebbe attraverso un simile inferno. Ci stringiamo la cintola e mastichiamo a lungo ogni boccone. Ma non basta, abbiamo una fame maledetta. Mi resta un pezzo di pane. Mangio la mollica e ripongo la crosta nel tascapane, morsicchiandovi di quando in quando. Man kann es nicht unbedingt Schlaf nennen. Von einem zum anderen Pol ist das Ganze genauso weit entfernt. Die Träume lehnen sich über den Rand und starren in den Krater der verlorenen Gegenstände, die da unten ruhig ihre Kreisbahn ziehen. La notte è insopportabile. Dormire non si può. Ce ne stiamo accoccolati, guardando fissi dinanzi a noi e sonnecchiando ogni tanto. Tiaden lamenta che si siano sprecati quei pezzi di pane rosicchiati dai topi. Dovevamo serbarli. Ora ciascuno di noi li mangerebbe. Anche l'acqua manca, ma sinora non abbiamo troppa sete. Verso il mattino, mentre è ancora scuro, ecco un'improvvisa commozione. Uno stormo di topi si precipita dall'ingresso e si slancia su per le pareti del ridotto. Le lampadine tascabili illuminano la scena. Tutti gridano e bestemmiano e picchiano. È l'ira e la disperazione di tutte queste ore che si scarica e si sfoga. Le facce sono stravolte, le braccia si agitano, le bestie guaiscono e ci calmiamo a fatica. Ancora un po' e ci saremmo assaliti l'un l'altro. Questo sfogo ci ha esauriti. Ci sediamo e l'attesa riprende. È uno dei pochi ricoveri che ancora resistano. Un sottufficiale arriva strisciando. Ha con sé una pagnotta. Tre uomini stanotte sono riusciti a passare e a portarci un po' di vitto. Raccontano che il fuoco si estende con eguale intensità fino agli appostamenti di artiglieria. È un mistero come quelli di là riescano ad avere tanti pezzi. E di nuovo bisogna aspettare e aspettare. Una delle reclute ha un attacco. Da un pezzo mi ero accorto che senza posa digrignava i denti e serrava i pugni e lo tenevo d'occhio. Li conosciamo abbastanza, questi occhi disperati che sembrano schizzare dall'orbita. Solo in apparenza in queste ultime ore si era fatto più quieto, si era abbattuto su se stesso come un albero marcio, ed eccolo che si alza e senza aver l'aria di nulla striscia attraverso il ridotto e si avvicina all'uscita. Io mi volto e gli domando: «Dove vai?» «Torno subito», dice lui e vuol passare oltre. «Ma aspetta che il fuoco si calmerà!» Mi ascolta un momento e l'occhio gli si rischiara, ma poi riprende quella sinistra espressione di cane idrofobo e mi spinge da un lato. «Un momento, amico!» Grido allora. Kat presta attenzione proprio quando l'altro mi respinge, l'afferra e lo teniamo fermo. Allora quello comincia a urlare: «Lasciatemi! Lasciatemi! Voglio uscire di qui!» Non vuole ascoltare ragione. Mena colpi all'impazzata, ha la bava alla bocca e mormora parole rotte, senza senso. È un attacco di fobia di trincea. Gli pare di soffocare e non sente che un impulso, uscire. Se lo lasciassimo fare, correrebbe allo scoperto senza ripararsi chissà dove. Non è il primo che finisca così. E siccome è furioso e ha gli occhi stravolti, non c'è che fare, bisogna picchiarlo di santa ragione perché ritorni in sé. Ce ne sbrighiamo rapidamente e senza misericordia e otteniamo l'effetto di farlo star quieto di nuovo, per il momento. La scena ha fatto impallidire gli altri, speriamo che serva loro di lezione. Questo fuoco tambureggiante è troppo per questi poveri ragazzi. Sono piombati direttamente dal deposito in questo inferno che farebbe imbiancare i capelli anche ad un anziano. L'aria mefitica dopo questo incidente ci irrita ancor più i nervi. Sediamo come in una tomba e non aspettiamo altro che di rimanervi sepolti. A un tratto un urlo un lampo terribile. Il ridotto freme in ogni fibra sotto lo schianto di un proiettile, fortunatamente di piccolo calibro perché le piastre di cemento hanno resistito. Uno scricchiolio orrendo come di metallo. Le pareti oscillano, armi, elmetti, terra, fango e polvere volano dovunque. Un atroce puzzo di zolfo ci soffoca. Se invece che in questo solido ridotto ci fossimo trovati in uno di quei cosini leggeri che fabbricano ora, sarebbe finita per noi. Anche così però l'effetto è brutto assai. La recluta di poc'anzi si agita di nuovo. Due altri si uniscono a lui. Uno riesce a liberarsi e fugge. Abbiamo un bel da fare a trattenere gli altri due. Io mi precipito dietro al fuggitivo e penso se non sia il caso di tirargli una fucilata alle gambe. Ma in quel punto odo un sibilo, mi getto a terra e quando mi rialzo la parete della trincea è sporca di schegge scottanti, brani di carne e pezzi di uniforme. Non mi resta che strisciare indietro nel ridotto. Ma la prima recluta pare davvero impazzita. Appena lo si lascia libero, dà colpi d'ariete contro i muri. A notte cercheremo di portarlo indietro. Per ora non possiamo far altro che legarlo, ma in modo da poterlo sciogliere subito in caso d'attacco. Kat propone una partita. Che altro dobbiamo fare? Forse il tempo passerà più presto. Ma non è possibile. Abbiamo le orecchie tese ad ogni detonazione più vicina e non poniamo mente alle carte che escono, sicché siamo costretti a piantar lì. Sediamo come al centro di una caldaia atrocemente rimbombante contro la quale da ogni parte si vibrino colpi di martello. Un'altra notte. La tensione ci ha intontiti. È una tensione mortale, come un coltello male affilato che ci graffi di continuo il filo della schiena. Le gambe non reggono più, le mani tremano, il corpo è come una epidermide sottile tesa sopra un delirio penosamente represso, sopra un urlo interminabile che ora prorromperà senza ritegno. Non abbiamo più né carne né muscoli. Non osiamo più nemmeno guardarci in viso per paura di alcunché di imprevedibile. Così non ci resta che stringere ferocemente le labbra. Passerà. Ha da passare, forse la scamperemo. A un tratto gli scoppi vicini cessano completamente. Il fuoco continua, ma si è spostato indietro, sicché la nostra trincea è libera. Noi afferriamo le granate a mano, le gettiamo davanti al nostro ricovero e balziamo fuori. Il fuoco tambureggiante è cessato. Dietro di noi invece si intensifica quello di sbarramento. Siamo all'attacco. Nessuno crederebbe che in questo deserto sconvolto possano esistere ancora degli uomini. Eppure, lungo tutta la linea delle trincee spuntano elmetti d'acciaio e a 50 metri da noi già si è piazzata una mitragliatrice che comincia ad abbaiare. I reticolati sono a pezzi, tuttavia possono ancora trattenere alquanto gli assalitori. Li vediamo avanzare, la nostra artiglieria spara, scoppiettano le mitragliatrici, crepitano i fucili. Quelli là si fanno avanti penosamente. Hai e Krop cominciano a lavorare con le bombe a mano. Le scagliano più rapidamente che possono. Noi le tendiamo loro per il manico, già pronte. Hai sa lanciarle a 60 metri, Krop a 50. Ne abbiamo fatto l'esperimento e la cosa è importante. Gli altri, avanzando, non possono far gran cosa prima di arrivare ai 30 metri. Riconosciamo le facce stravolte e gli elmetti. Sono francesi. Raggiungono gli avanzi dei nostri reticolati e già hanno perdite visibili. Una fila intera viene falciata dalla mitragliatrice posta al nostro fianco, ma poi questa inceppa sicché gli altri si avvicinano. Vedo uno di loro abbattersi su un cavallo di Frisia col volto all'insù. Il corpo si insacca, le mani restano aggrappate come se volesse pregare. Poi il corpo si stacca del tutto e le mani sole coi moncherini delle braccia penzolano dal reticolato. Nell'istante in cui ci ritiriamo, davanti a noi tre facce si levano da terra. Sotto un elmetto scorgo una barbetta a pizzo e due occhi che mi fissano intensamente. Alzo il braccio, ma mi è impossibile di gettare la granata contro quegli occhi strani. Per un attimo tutta la battaglia turbina in cerchio intorno a me e a quel paio d'occhi che soli stanno immobili. Finalmente il volto si drizza, una mano un movimento e la mia granata vola e colpisce. Corriamo indietro, trasciniamo cavalli di Frisia nelle trincee e lasciamo cadere dietro a noi delle bombe a mano che scoppiando ci coprono la ritirata. Dalla posizione retrostante le mitragliatrici sparano per proteggerci. Siamo diventati belve pericolose. Non combattiamo più, ci difendiamo dall'annientamento. Non scagliamo le bombe contro altri uomini. Che cosa ne sappiamo noi in questo momento? Ma di là ci incalza la morte con quegli elmi e con quelle mani. E dopo 3 giorni è la prima volta che la vediamo in viso, che ci possiamo difendere contro di essa. Deliriamo di rabbia. Non siamo più legati, impotenti al patibolo. Possiamo distruggere, uccidere a nostra volta per salvarci e per vendicarci. Aggrappati ad ogni sinuosità del terreno, a riparo dietro ogni palo di reticolato, gettiamo nelle gambe degli assalitori bombe su bombe prima di ripiegare. Lo schianto delle granate a mano ci dà forza alle braccia, alle gambe. Corriamo curvi come gatti, travolti da quest'onda che ci porta e ci fa crudeli, ci fa briganti, assassini, demoni magari, da quest'onda che moltiplica le nostre energie nell'angoscia e nella rabbia e nella sete di vita e ci fa cercare e conquistare la salvezza. Dobbiamo abbandonare le trincee più avanzate, ma sono ancora trincee distrutte, annientate, non sono che rottami di trincee, buche, qualche pezzo di camminamento, qualche nido da mitragliatrice, nulla più. Ma le perdite degli altri si accumulano. Non hanno calcolato su tanta resistenza. Mezzogiorno, il sole scotta, il sudore ci abbrucia le palpebre, lo asciughiamo con la manica, spesso vi si mescola sangue. Spunta la prima trincea, un po' meglio conservata, è occupata e preparata per il contrattacco e ci accoglie. La nostra artiglieria interviene energicamente e arresta l'avanzata. Le linee dietro a noi si fermano, non possono avanzare. L'attacco viene sbocconcellato dalla nostra artiglieria. Noi stiamo in agguato. Il fuoco si sposta di 100 metri in avanti e subito balziamo fuori di nuovo. Accanto a me ad un caporale viene asportata la testa di netto e gli fa ancora alcuni passi avanti mentre il sangue gli zampilla dal collo come una fontana. Non si arriva proprio al corpo a corpo perché gli altri sono costretti a retrocedere. Raggiungiamo le nostre vecchie trincee sconquassate e le oltrepassiamo. A quel ritornare all'attacco. Si è giunti al riparo nelle posizioni di riserva, si vorrebbe penetrarvi carponi, sparire, ed invece bisogna fare dietro front, ritornare indietro, nell'orrore. Se in questo momento non fossimo degli automi, rimarremmo sdraiati, esauriti, privi di volontà, ma siamo trascinati in avanti, esseri senza volontà, eppure pazzamente selvaggi, e furibondi, bramosi di uccidere, poiché quelli di là sono ora i nostri nemici mortali e i loro fucili, le loro granate sono dirette contro di noi e se non li sterminiamo, essi stermineranno noi. La bruna terra, la terra rotta, scheggiata e scura, coi suoi riflessi grassi sotto il sole, è come lo sfondo di questo incessante, sordo automatismo di cui il nostro ansimare misura il ritmo quasi meccanico. Le labbra sono aride, la testa più confusa che dopo una notte di orgia e brancoliamo così in avanti, sempre in avanti, mentre nelle nostre anime logorate e ferite anch'esse si imprime penosamente il quadro indelebile della terra bruna e grassa sotto il sole, dei soldati rantolanti e morenti che giacciono lì come se fosse una cosa naturale, e ci afferrano per le gambe e gridano mentre noi li oltrepassiamo correndo. Un giovane francese rimane indietro. Viene raggiunto, alza le mani. In una stringe ancora una rivoltella. Non si sa se voglia sparare o arrendersi. Un colpo di vanghetta gli spacca la faccia. Un secondo, veduto ciò, tenta di fuggire, ma una baionetta gli guizza nella schiena. Salta in alto, le braccia aperte, la bocca spalancata nell'urlo e corre via con la baionetta infissa fra le spalle. Un terzo getta via il fucile, si rannicchia a terra, le mani sugli occhi. Questo lo lasciamo indietro con qualche altro prigioniero per portar via i feriti. A un tratto l'inseguimento ci porta alle posizioni nemiche. Inseguiamo così da presso gli avversari che ci riesce di giungere quasi contemporaneamente nelle loro trincee, risparmiando così molte perdite. Una mitragliatrice spara, ma una bomba a mano la fa tacere. Tuttavia quei pochi colpi sono bastati a ferire 5 dei nostri nel ventre. A uno dei mitraglieri superstiti, Kat col calcio del fucile riduce il volto in poltiglia. Pugnaliamo gli altri senza dar loro tempo di metter mano alle bombe. Poi, assetati, beviamo l'acqua dei raffreddatori. Dappertutto scattano pinze, si gettano assi sopra gli sbarramenti e per gli stretti varchi penetriamo nelle trincee. Hai caccia la sua vanghetta nel collo a un gigantesco francese e scaglia la prima bomba a mano. Ci ripariamo qualche secondo dietro un parapetto e l'elemento di trincea che abbiamo dinanzi è libero. Alla prossima volta sibila una seconda bomba e ci fa strada pulita. Avanzando di corsa ne facciamo volare a manate entro i ricoveri. La terra trema, è uno schianto, un gemito, vapore e fumo. Si sdrucciola su brandelli viscidi di carne umana, su corpi sfasciati. Io cado in un ventre aperto, sopra il quale sta un berretto d'ufficiale, ancora nuovo e pulito. Il combattimento si arresta. Il contatto col nemico è rotto. Non potendo noi resistere a lungo in questa posizione, ci richiamano indietro sotto la protezione della nostra artiglieria. Appena lo sappiamo, ci precipitiamo di volata nei ricoveri più vicini per prendere quanto più possiamo di viveri in conserva, specialmente le scatole di carne, di burro, e poi via. Il ritorno va liscio. Per il momento non sono da temere contrattacchi. Più di un'ora ce ne stiamo coricati, ansimando prima che qualcuno possa parlare. Siamo tanto esauriti che, nonostante la fame terribile, non pensiamo alla carne in conserva. Solo a grado torniamo a essere pressa poco degli uomini. Il corned beef del nemico è celebre su tutto il fronte. Talvolta costituisce esso solo il motivo determinante per qualche colpo di mano da parte nostra, perché in genere il nostro nutrimento è cattivo e abbiamo sempre fame. Abbiamo prelevato complessivamente 5 scatole. Quella gente si nutre che è una meraviglia in confronto di noi poveri morti di fame, con la nostra marmellata di rape. La carne vi abbonda, basta allungare la mano per prenderla. Hai ha buscato anche un bastoncino di bianco pane francese e se l'è infilato nella cintola come una vanghetta. Veramente è un po' insanguinato da una parte, ma non importa, si può tagliare via. È una fortuna che si trovi da mangiare bene. Avremo ancora bisogno delle nostre forze. Una buona mangiata è preziosa quanto un ricovero sicuro. Siamo avidi di cibo sostanzioso perché può salvarci la vita. Tiaden ha fatto anche bottino di 2 borracce piene di cognac. Lo facciamo circolare.